Questo è il Dogo Club, dimmi tu chi sei. Io sono Don Joe e faccio il DJ. Quando arrivo sul palco con la furia e guè, devi metterti da parte perché tocca a me. Riempio il posto e dopo spacco tutto, zio. Quando arrivo devi farmi passare, perché salgo e dopo spacco il locale. E tu ti sei presa una bottiglia, mentre la mia famiglia quando arriva si prende il bar. Staccavano lo stemma alla Mercedes. Il Dogo è la mia fede. Sono tornato per sfondare le casse, svuotare le casse quando passa un tornado. Faccio storia con le rime, do steroidi alle rimo, gli asteroidi e le stelle vicine. Hai un gran futuro alle spalle, riguardo al rap non avrai altro dio all'infuori di que. A scuola ero bravo, l'educazione fisica col chiavo, il mate con lo sgrammo, storia, la presa della pastiglia, memoria, filosofia, fatti i cazzi tuoi e via, via. Quando passa la mia tipa fra ti viene l'asma, la tua tipa fra intrappiata come il mio plasma. Gucci e Nike, Nike e Air Jordan, e mi cremo pure tua sorella, ma spacco le basi, non stacco le basi come Morgan. Quando arrivo devi farmi passare, perché salgo e dopo spacco il locale. E tu ti sei preso una bottiglia, mentre la mia famiglia quando arriva si prende il bar. Riempio il posto e dopo spacco. Riempio il posto e dopo spacco tutto, zio. La furia è l'espressione in carne ed ossa della roccia. Mando giù un litro a canna, zio, diretto dalla boccia. Gli occhiali neri a goccia, la testa come coggia. Il rapper che mi scoccia, la tipa che si appoggia. E a Milano sono il numero uno. Non ho abbastanza medi per mandarvi tutti a fanculo. E sti cantanti non fanno più cose nuove, fanno solo le cover. O non fanno la benza dentro alla Range Rover. Non dico io, metto la Z e cambio la pronuncia. La furia è la truncia del buncia. E baby io sono in trasferta e gli altri sono di qua. Ma è con me che lei si fa la foto bella di moi. È una cifra di cloni col 501. Solo perché gli Evisu stanno a 500 l'uno. Quanto gli costa questo club? Ma sono un mostro a fare il rap. E riempio il posto, metto tutti a posto e poi gli sfondo il bar. Quando arrivo devi farmi passare, perché salgo e dopo spacco il locale. E tu ti sei presa una bottiglia, mentre la mia famiglia quando arriva si prende il bar. Riempio il posto e dopo spacco tutto, zio. Riempio il posto e dopo spacco tutto, zio. Finché non viene la polizia e ci portano via. Arriva la polizia e ci portano via. Arriva la polizia e ci portano via. Arriva la polizia e ci portano via.